andiamo, vai! Allora, qua hai una storia, perdono. È puta madre, sì. Senza roba da bere, senza parmigiano, senza, che ne so, latticini, uova, verdure, tutto avevamo finito, tutto. No, e tutto no, però le cose base mancavano e quindi ho dovuto fare poi roba dei gatti, che questi mangiano e fanno la pupù come i cavalli. È come essere in quattro persone qua già. Tu hai il cane, già capirai, è come essere due persone là, come spese e come impegno. Sì, il cane spese le porta e anche i pappagalli. Tu pensa che il mangime dei pappagalli costa 50 euro, è aumentato adesso, costava 40, adesso costa 50. 50 euro, e quanto dura? Quindi in base ai tuoi pappagalli, quanti ne hai? Tre, e durerà due mesi, dai, due mesi e poi devi riprendere. E qua a Sassari non lo vedono quel tipo di mangime, perché quello è mangime fatto a base di miele, di nettare, per nettarini, capito? Sento qualcuno che parla, faccio un break. Io credo non è normale mangime tipo becchime, quella robaccia che danno ai canarini, no, è roba più per la loro dieta, diciamo, dai. No Marco, è a base di nettare, miele, a base di pasticceria, tutta roba dolce, perché loro sono nettarini e mangiano questa roba. È una polvere tipo farina fina che tu li devi impastare con l'acqua, oppure glielo puoi dare così e poi loro si bevono l'acqua, però pure sporcano tutta l'acqua se glielo dai asciutto. Invece è meglio darglielo già impastato, loro lo mangiano tranquillamente e aspettano che glielo metta, sono dei furibondi, come lo vedo si buttano sopra. Ale, mandalo avanti tu che a me non mi sente. Ah. Ciao Luca. Attenzione collega, ci ascolti Vittalia che chiama, cambio. Attento collega, vamos a ver se va scusando la Italia che va chiamando davanti. Lo puoi comprendere, per favore? Spagnolo. Ma mi sentite? Sì, che mi copre. No, no, già ti sentiamo. Se no ti avrei risposto, già ti sentiamo, tranquillo. Certo, ci mancherebbe, se copre te è drammatica la situazione. È nata lingua, dov'è? È entrato oggi? E stanno facendo la legge di buco. Nata lingua, ci sei all'ascolto? O anche oggi da bravo paragnosta. Io devo fare la spesa grossa, mi sono tenuto il parcheggio della macchina sotto casa con la moto, l'ho messa bella in mezzo alle balle, mi sono tornato, ho spostato la moto e ci ho messo la macchina, ho scaricato. Chissà le maledizioni che mi stanno mandando. E meno male non te la spostano, perché c'è gente che la sposta. Ma sai cosa, c'è l'allarme, inizierebbe a suonare. Oh, qualcuno farebbe lo stesso, la trascinano. Sai che c'era tanti anni fa un quel bancarellaio cattivo, Niort, che abitava qua di fronte, ma tanti anni fa, poi era morto. E io avevo messo la moto parallela a marciapiede, come dice il codice, senza bloccare l'uscita delle macchine, non mettendo la macchina là, se no non lo faccio. Lui ha trascinato malamente la moto che era sul cavalletto laterale, l'ha messa tutta assorta sul marciapiede per mettersi la macchina. E volevo andare a bussare alla porta, però non mi ha detto, lascia perdere, questo lo conosco, questo ha il coltello facile, fregatene, non è gente normale questa, lascia stare. E io ho lasciato stare. Ma chi era Marco, quello che aveva la voce strana? E boh, io ricordo capelli briciolati, per non dire bianchi, occhiali. E Malu, per come me l'hanno detto, io non lo sapevo. Io stavo andando a bussare campanella e dire, cioè me l'ha messa sul marciapiede, potevano anche multarmela, capito? E dice, lascia perdere, questo c'è il coltello facile. A Futillini, era anziano me. Allora possiamo fare ciò che vuoi, non ho capito. Passava già la polizia per dirgli cosa succedeva. Che lui non la può toccare la moto. Ma puoi metterla così anche, cioè, no, ma dico, sapevo prima, andavo equipaggiato con qualcosa, non a mani nude, capisci? Vabbè, avanti. Ehi, ehi, vabbè, oggi ti conviene, stavo più entrando, però per la sera mai non ci sono, esco da casa, vado, metto fuori con questo caldo, ma città sera mi sono rimasto a casa. Anzi, oggi ancora è bello ventilato, Luca, ascolta, ma tu stai lavorando in qualche locale? Ho visto una foto condivisa con le camicia bianca e cravattino. Qualche locale? No, matrimonio ero. Ah, paghissimo, era il papillon, ho detto, ammazza, oh. E credo che stessi lavorando in qualche locale, dai. No, no. Bravo, Luca. E non c'è Gianni, c'è anche Gianni. Sì, ma CB si è sposato, qualche CB? Molto bella. Un bolino. Ah, Antonio si è sposato, buono, buono. Poi quando lo sento gli faccio gli auguri, dai. Non l'ho sentito da un po', da un mese. Sì, da quando c'è il figlio piccolo, deve aiutare la moglie, Lei infatti richiede tempo, cioè, anche per aiutare la moglie, no? Quando c'è l'uomo in casa un po' deve aiutare, se no poveraccia. È impegnativo il figlio piccolo, appunto io non volendo rompere tutto in balle ho preferito pigliare le contromisure. Non c'è mai detto l'ultima parola, magari se ti ricapita io le bollicine. Sì, già, senza scherzi, adesso non mi servivano, perché non è che stia andando a cercare, oggi li ho comprati, da Lido, il profilattici, quelli marca Mondo a pochissimo prezzo, poi che servono, non servono, l'importante è averli, se su mi ripongo il capo, però ce li ho, sia mai che debbano servire. Vabbè, io non ne ho mai usato, dico la verità. Già, ma di questi tempi, cioè, che a meno che non fai le analisi complete, non sai cosa c'ha la tipa, se c'ha... per esempio l'HIV non ti accorgi di niente se è sieropositiva, non ha patologie visibili. E poi per non parlare di tutte le altre malattie, già, è un rischio orrendo, meglio non pensarci. e quindi se dovesse succedere è meglio essere scafandrati, capito? Vai Luca. Infatti, poi anche l'igiene conta molto, se la usi, conta molto. Purtroppo non tutte lo fanno, è vero. È così, l'igiene è molto importante. Ma io non ci vado con donne così, io vado con gente tranquilla. Oh già, metti che trovi una che c'ha la ricotta muschia. Che schifo, mica che lasciamo in faccia protetta, che siamo ancora in faccia protetta, non si possono dire certe cose. Ma la ricotta muschia è un formaggio, non, i bambini già non capiscono. Oddio, se sono molto smaliziati capiscono come. Sì, se acciappi a Giovannino, lo vedi, visto che fa di brodo. Mamma, cosa ti piace, ma è brodo. Allora non è brodo. Oh signore, dai, è scaduto il tempo, devo buttare la pasta e poi mangiare. Quindi un saluto festoso a tutti e ci sentiamo. Buon proseguimento. Ciao, ciao a tutti. Vai Luca. Ciao Marco, la prossima. Ciao Marco, ciao, dai, buona carica quando la fai. Luca, avanti. Ehi, gaba. Che caldo? Sì. Cioè, vedete, questo qua, c'è questa gli ha consumato. Cosa ci vuoi fare? Prossima avventura. Sì. Devo riprendere il caldo. Cosa è importa? Cattivo, no. Pensa per il bacio, tempo giù io, tempo giù, tempo giù. Ma queste qua sono le cartucce del coso, però. Del fucile ad aria. Quando sei preso? Meno queste cartucce per comprare le gomme della bicicletta. Con un caldozzo? Con un coso, con un... come si chiama? Un adattatore, ecco. Chiamiamolo così, mi aspetta. Mi sapete, mi senti? Ma che non ti funziona le cacche a bufolatura di compiacere i gomme? No, le ho già gonfiate. E cos'è questa cosa? C'ha le cartucce. Cioè, ma un tipo me le ha regalate, le cartucce. Mi ha regalato la pompa piccolina per gonfiare le gomme. Sembra un po' comparata. Mi ha regalato e porta un coso, no? C'è la bicicletta, più di tutte da dove ci sono. Siamo capiti, e poi non vabbè, fa la liquida, non tu, vabbè. E vabbè, un rimbimbo. Ci sono... aspetta. Sì, da tutti. Fa la liquida. E la catavetta. Ma tu buffi da tutti giù. Non so. E tu mi fa un regalo, dammi. Hai fatto la bella, gli ho offerto. Non ti può tranquillo, eh. E li diamo regalati. Asco, la prendiamo sempre la bici. A voi, faccio la macchina se riesco già, a pochi soldi che, insomma, che non si è messa male, oppure una macchina a regalo, non c'è nessuno. Ma su internet non lo vedi quello di Napoli che vende le macchine a seconda mano, ne ha 900 euro, ne ha 1000 euro, ne ha 3000, ne ha 2000, ce ne ha tutti i prezzi. Ma non mi fido già. Sì, sono chilometrate, c'erano cioè di chilometri, però sono macchine buone, capito? Sono macchine che ti fanno anche altri 100.000 chilometri. Non so, vediamo. Due sono le cose, se la vuoi buona la macchina la devi pagare, anche la puoi prendere anche di quelle, come si dice, di quelle aziendali, quelle lì sono come nuove, le usano un paio di mesi e poi le mettono da parte, se hanno difetti le regolano, le aggiustano, le fanno, che saranno proprio perfette. Sì, lo so, ma ci puoi dare di più. Passa c'è una tipa, però secondo me è un furto questo, qualcuno che vuole fregare qualche persona, ma che non mi furti. Una panna del 2013, nuova, 2000 euro, subito gliela avrei presa. Nel 2013? Sì, nuova. Nel 2013 sono passati un po' di anni e magari l'ho usata poco. C'è una nuova già, nova. Dove lui ha creato una famiglia. sono le foto, ci sono anche. Però è di quelli che ti mandano numero di telefono per via WhatsApp, poi dico di fare una ricarica, se vuoi bloccare la macchina, e poi ti butti di là, capito? Quindi mandami un messaggio tramite l'email Gmail e poi ti lascio un numero, certo è un numero provvisorio. Questo numero, questi numeri qua non hanno. Sono finiti buona mamma, cazzo bastardo. Stai attento perché internet è proprio una giungla. Ah no, si intende, no, non abbiamo mi butti, tranquillo. Guarda, poco ho fatto un ordine, ho dato la batteria a mano alle 5, mi è arrivata proprio oggi, giorno 3. La data c'era giorno 3 che era qua, e giorno 3 è arrivata, l'ho già cambiata, del Huawei, Emanuele. Ma Huawei ancora sta dando, dice che non aveva più Google Book, che non riusciva più a... Non riuscivo più a andare su Google con Huawei. Ah, ok, tutto più su, buonasera. No, ciao Flash. Boh. Vabbè, avanti, stanco, avanti, buonasera. Ciao Gianni, com'è? Tutto bene? Grazie a Dio, sì, e tu come stai? Ah, va bene, dai, va bene. Sempre viaggiando? No, sono entrato un po' di fede. Ah, già, va bene, allora, dai. E la salute come va? E adesso migliorando, dai. Molto, molto, molto. Sono contento, dai. Piano piano, dai. Avanti. E chi è l'amico? Lo sento basso, chi è? Giovanni Stanco, Frattamona. Ah, ciao Giovanni, mi senti? Certo Luca, ti ascolto. Radio 5, segnale 9, ti ascolto bene. Ciao Luca. Guarda, sono migliorato, più forte adesso. A voglia, sei salito, sì. Ok, dai, sono agganciato. Facciamo andare il coso, già. Il Gigetto. Gigetto Fisichetto. Mamma mia. Gigetto, anche tu, cazzo tanto effetto. Tanto vanno di follower, insomma, cazzo, non dico milioni quasi. Sì, ma è proprio di drone, va a caricare. Ma che sa bocca che pare una papera. Cazzo salvagente si abusa in bocca. È cantante, mi fa le canzoni. Io sono Gigetto. lo so. Allora Giovanni, cosa ci racconti? No, non so bene, dai. Ho fatto un anno con quello che c'avevo un esame, un caso. E niente, io ho dovuto mettere un po' di notte, in questa no, dietro, e insomma, un po' funziona, però non vedo, anzi, se hai due secondi di tempo, ne approfitto e faccio una prova d'aria. Ok, dai. Avanti, dai. E lo copre un po' la propagazione. Sì, ti ascolto, avanti. Ma mi senti male perché sento un fischio allucinante io. Sì, sta innescando. Cazzo, non capisco perché. Me lo fa soltanto in AM. In FM non me lo fa. Ma cosa c'è? La tua baracchina accesa? No, è spento, è spento. Me lo fa solo in AM. In FM non me lo fa. Strano. Ti sente molto quel fischio, vero? Non so che cazzo sia successo. Cavagano. Va bene, dai, ripasso sull'altro. Questo non... Ecco, ha smesso un po', vero? Cosa? Sembrava che aveva smesso un pochino, invece no. No, sempre sta innescando. Ma se è pulito, senza niente, soltanto lui. E ma non da me. E segnale com'è, cazzo? Qui io devo smettere che sei a fondo scala. No. Segnale com'è? C'è 9.10, 9.15, dai. Non serve un cazzo, però è inutile che c'hai il segnale quando poi fa questo innesco brutto. Sento proprio il rimbombo io qua. 9.10, sì, dai. Esatto. Lo so, tu ti devo mettere l'altro, dai. Ma cosa c'hai? Il camion lì c'hai? No, sono a casa. Ho capito. Vabbè, dai, metti l'altro, avanti lì. Ehi. E abbia la tua macchina attaccato vicino ai fischia. No, te l'ho detto anche io. E mi sa che le temperature iniziano di nuovo a salire già. Esce la prossima settimana, vediamo. No, fa, secondo me fa un bel caldo. Comunque dice, mi hanno detto che non è un caldo assai, assai. Cazzo, mi dica 36 gradi ha messo. Minchia. È arrivata. Ma questo è un po' più, lo sto odiando, il caldo. Mi associo. Io guarda, sono appetto nudo in casa. Ehi, hai il tuo ascolto, però sei basso di radio. Ho cambiato il microfono, sta rifischiando. Sta rifischiando, vero? No. Uno, due, tre, prova, uno, due, tre, prova. No, non sta fischiando. Mi sento rimbombo. Comunque il fischio può dipendere anche dalla stazionale. Se ha un microfono amplificato te lo fa fischiare. Quello che c'avevo prima accesso era amplificato, ma questo qui no, questo che ho messo adesso non è amplificato. Uno, due, tre. Marco, cucinato. Ma sta mangiando anche. Volevo chiedere una cosa a Luca se quando rientra. Qua dimmi Marco. Lu, tu avevi la bici elettrica. Sai niente se le regole dei monopattini le hanno adottate per le bici elettriche? Boh, non so nulla. So che ho sentito dire. Come si dice? Ho sentito dire ci vuole l'assicurazione, il casco. Quello è. A me sarebbe piaciuto per commissioni, così entro un paio di chilometri, 2-3 chilometri, un monopattino elettrico. Mi sarebbe proprio piaciuto, però, cioè, finché ce l'hanno fatta, cioè casco, assicurazione targa, allora mi tengo lo scooter e basta. Peccato, peccato, forse con le bici elettriche forse l'hanno adottato, ma non lo so, non sono sicuro. Se no bisogna ripiegare su quelle, se sono senza assicurazione, senza casco, però dubito. E poi se vedono che si ripiegano tutti su quelle, lo mettono anche su quelle lì. Però scusate, a me sembra un'inchiappettata, perché loro prima hanno fatto gli incentivi per farti comprare monopattini a destra a manca, no? E poi la stangata, capito? Loro dicono che la colpa è degli incidenti, no, non è studiata a tavolino. Volevano fare in modo che più persone possibili se li comprassero, con la scusa della mobilità elettrica, il clima, il green. E poi la stangata, capito? Assicurazione, targa, casco. Io a me andare in casco con un trespolo me ne vado in moto direttamente. Pazienza, niente, non le compro. Luca, vai. Ma ce l'hai sempre la moto, Marco? Eia. Sempre nuova, perché non sta bene. E oddio, non la sto lavando da un bel... Però c'è la trasmissione da rifare, rulli, cinghia, che non ne sto facendo. Però, sai cos'è? Io se dovessi comprare indietro, se dovessi, scusate, tornare indietro, io l'usato non lo prenderei mai. Per lo scooter, perché non sai mai cosa trovi. E lì cominci, il freno indietro completamente consumato a tamburo, la ruota indietro consumata, lo era già in realtà. All'acquisto, tutti i rulli, i cinghie da rifare, poi non so cos'altro c'è da fare, cioè io sono convinto, pagandola meno di metà prezzo, sono convinto di avere risparmiato per uno scooter. In realtà non ho risparmiato niente, perché se fai il conto di tutto, praticamente era come comprarlo già nuovo dall'inizio e sarebbe durato di più prima di fargli questi interventi, capito Luca? Natalino forse era, a lui farebbe comodo mio uno scooter, però voleva prendere usato e gli ho detto, boh, vedi tu, io non mi fiderei più, o nuovo o niente. Confermo, avanti già, un attimo sono al telefono, ripeti già. E io l'ho preso solo una volta, un 125, no 150, l'ho preso a seconda mano, però andava bene, non l'ho mai fatto nessun lavoro, andava bene, perché era per il fratello di una mia collega, ho chiesto, perché già prendi da occhi chiusi che mio fratello teneva bene. Non solo, la marmitta è abbastanza rumorosa, quindi se metti la trasmissione da rifare, cinghie, rulli, bla bla, frizione, quello che è, frizione automatica naturalmente, e il freno posteriore a tamburo, il pneumatico posteriore, la marmitta da cambiare, cioè alla fine la manodopera è quella che incide anche pesantemente, era meglio prendere la nuova dall'inizio, però... vabbè, è andata così, dai. Infatti. Sì, le cose usate sono sempre così, io ho anche le macchine sempre nuove le ho prese, solo le prime a 500 ho preso, e l'altro 50 che mi aveva venduto il mio suocero, che la conoscevo, e poi tutte le altre sono tutte nuove. Poi già. Ma sai di chi era questo scooter? Era di una... un tipo a centro vacanze, quello che... Alghero, che noleggiava lo scooter ai turisti. Quindi immagina come l'hanno trattato, avranno sbatturato per bene quel motore, l'avranno crepato per bene quel motore. Capito? Una cosa è un privato, magari un'impiegata che lo tengono benissimo, no, per andare a lavoro. È una cosa darlo a degli scellerati che tanto pagano, lo portano a manetta fuori giri, capito? Lo crepano così. Va bene, non fa niente. Ma funziona, però è rumoroso già. Rumoroso, non cammina niente. A me addirittura mi ha dato due marmitte, un Arrow che ce l'aveva sotto, e poi mi ha detto se tu vuoi mettere l'originale, ti do anche l'originale. E mi ha dato anche l'originale. Sarà ingrippato Marco, quindi a me che me lo metto a posto. Mi ha visto nei cibi, ciao Natalia. Ciao. Ciao Natalia, scusate un attimo che... Okay. Dai, finisco di mangiare, se no non riesco. Ciao Natalia, vabbè, hai chiesto? Qua vicino non ne hanno, bisogna andare dove mi hai detto tu a vedere, perché io lo voglio a 125 minimo, ma tutti quanti non me ne porto nulla, poi mi fanno pagare un bel di assicurazione, se no me lo prendo 125. Comunque Natalia, per quel posto che ti ho detto, sì è perfetto, una mazza, non era perfetto nemmeno appena ritirato. Funzionava, però guardati bene dai venditori di macchine usate e quindi anche di moto, che sono tutti futtibici. Va bene, a dopo, chiudo, che sto mangiando. E io, Natali, guarda che su subito. Non ce n'è, ho guardato tutta la provincia di Sassari, e non blindata, siamo in estate, non è crudi. Io adesso vedo un po' se c'hanno qualche usato come si deve, e se c'ha qualche cosa da fare me la faccio io, problemi non ne ho. E anche se è comodo, perché lì è un caso da trovare parcheggio. Sì, poi a me non me lo tocca nessuno che c'è la telecamera che lo sorveglia, capito? A chi rubrimo che c'ha benzina, a gatto di cui non ha girato la sombra. Uno scarabeo ti conviene, che va bene. Ma lo voglio 125, lo so che va bene, io c'avevo il 50, non avevo, no, le mani mi dovevo tagliare, 4 tempi era quello che c'avevo io, 50, ma lo sai quanto funzionava bene, benissimo andava. Cazzo, l'ho venduto 500 euro, cazzo. Sì. Quello di Sergio era. Che mio nipote era caduto, era. Non ne ha voluto più sapere, allora mio fratello l'ha preso e l'ha venduto a me. Cazzo, io avevo bisogno di soldi, me lo sono venduto a mia volta. Però cazzo, era troppo bello quello scarabeo, perché mi facevo le commissioni, andavo ovunque. E poi camminava, passi un 50, camminava un bel. So, scarabeo cammina. Figurati, 125 deve essere una bestia. Adesso vedo un po' se lo trovo qualcuno, cazzo. Magari su internet già li trovi, dove ci sono comprovendo scambio, Sassari vende. No, blindata, ho già guardato, non ce n'è. Vado da dove le vendono le moto, se hanno qualche usato, se non me lo pigliano uno, qualcuno, se non le trovo usato. Aldo, non ci vado a chi dice che truffatore voi. E lo conosco, perché erano clienti miei, il padre, conosco il fratello, a lui. Ci avevano un bar prima di Napoli. Successo. Oggi amare truffaldo. In corso Vicora, via Neburu. Cazzo, erano i clienti. A truffaldino già lo conosco, solo che dice che è truffatore voi. Gianni, ma avanti, ma mi ascolti adesso con questo? Con questo ti ascolto bene anch'io. Non sento neanche una parola di quello che dice Natalino. Prima l'ascoltavo, ma ha fatto qualche cosa. Ciao Tonino. Ciao, ciao Natalino. Non mi ascolta. Già ti ascolto Tonino. Ehi, per l'amore. Allora, ti do alcune indicazioni da dove la mossa la vuoi prendere. Suolo quadrato. Cioè quello che vende la moto ce l'ha anche usato a scuola a mano, 125 e tutto quello che vuoi. Uno. Secondo luogo, potresti andare tutto molto. E là la trovi lo stesso, a scuola a mano. Negozi, adesso ho parlato di negozi. Poi devi girare questi negozi qua, Natalia, è inutile che tu guardi su subito.it e quello con l'altro. E ovvio che non li trovi. Tutto molto è truffaldo. Se mai vai dall'allo moto, quello che è proprio torre. Tanto a me mi servono 125, mia mamma non la voglio. Capito. Tutto molto dove si trova Tony, che non lo so, non me lo ricordo dove è tutto molto. Allora, dove c'è i sushi che vendono, ci dici, per andare a Usciano, insomma. Oppure qua Gianni dice che addirittura è profondino, ma può andare quello che c'è sul quadrato. Prima di quel bar che c'è uno che vende moto, io sono andato una volta per caso e aveva un medio moto usate a seconda mano. E venivano un bel 125, 250, 750, in tutti i tipi se aveva. Anche l'allomoto di Aleppo Dottore se ne ha fatto. Non è a moto l'allomoto. Non è a, sono andato stamattina da quello. E anche da quello in via San Francesco, qua vicino e non è a. Adesso vado da quello che mi ha detto Tonino e vedo un po'. Poi Natalì, dato che eri dall'allo molto, un po' più giù, dopo il rifornitore, dopo il bar, tabacchino, c'è quello che è giusto alla moto. Se anche tu e io poco fa ti ho sentito, ho detto, me la giusto piano piano, puoi trovare qualcuno che l'ha lasciata meccanico, oh, vendimela a un prezzo stracciato, così me la faccio fuori. Niente, se no trovi qualcosa di positivo anche lì. Non costa nulla chiudere e chiedere, c'è capito? Sì, infatti, problemi per mettergli mano non ne ho io. Se mi elaboravo le feste, il gatto, mi ha fatto il motore in due, fatti un conto, problemi, vado a contarmi una moto. E quindi potresti chiedere anche a quel meccanico lì. Poi, ripeto, quello del quadrato ha le moto veramente chicche, io l'ho viste, ben tenute, spolverate, ci sono andato per caso. Devi guardare, chiedere, girare, capito? Avanti già. Infatti, ma cosa a me mi serve? Non posso camminare, cazzo. Andate via la macchina, è un problema per me. Invece quando c'ho la moto, con la moto vado, mi faccio le commissioni, manco macchina dopo, vatti un conto. Io la moto ho finito, ho chiuso. Perché non ho mai avuto incidenti, avevo 60 su un zucchio ultimamente e lo scooterone 250 a forza onda. Mi danno in appalto, lì c'è Marco, è passato con lui, io da lì ho venduto tutto, non le voglio più sapere, basta. Ah, se sei qua coma, sì, molto per andare. Fa una vergogna che sei qua coma e non più guidare. Sì, Tony, anche io ne ho avuto anche le moto grosse, solo che adesso con la gamba come ho così, la forza non ce l'ho più, io ho avuto il Burgman 6,50 che pesava, cazzo, 220 kg, qua a fatica lo sottavo, quindi voglio una moto leggera, un 125 mi va bene a me. A me mi serve andare a farmi ricommissione, mi. E boh. Non ho velleità di correre, di fare, manco baricatoli me ne basta. Aspetta, aspetta che mi sono ricordato una cosa. Tu lo conosci a Massimo, che è bello robusto e ci lavora anche coso, Autotop lo chiamano. In via Mambo c'ha il ristorante, Mambo, le mobili, antiche, eccetera, eccetera. Lo conosci quello lì? No. Vedi, quello lì sta vendendo lo scooterone, lo scooterino, cioè lo scooterino 125 del padre. Lo sto dando 500 euro. Per me era minore, non mi mia zia, infatti mi ha fatto 600. Ho capito. No, io lo voglio piccolo. Tipo scarpe. Scarabeo 125 e va benissimo per me, un 125 è l'ideale. Tanto che non sia inciudato come il 350 e che cammini un po', basta, mi interessa questo e che poi si abusa in lui, allora voglio 125 per quello, così mi posso fare commissioni, ci aiuta ad andare, non voglio pigliare la macchina, piglio la moto e ando, e problemi mi impongo, perché io ho problemi a camminare e a piedi, è quello il problema. È per quello che me lo voglio pigliare. Luca, come si dice? Mi stavo pensando che stavo uscendo, dai. Andare a fare una commissione. Ok, buona commissione, avanti già. Ciao Luca. Avanti, stanco, ci sei ancora. Giovanni, Salvatua. Avanti, Natali, per saluti a Luca. Ciao Lu, buon proseguimento, dai. Ah, però lo sento con un rumore strano sotto. A chi era Torino? Sì. Tipo questo, no? Quello del genere. Sì, pregatene, c'ho la ventola dell'alimentatore, c'ho il ventilatore acceso. Insomma, vabbè, prendetevi i rumori se mi volete sentire, se no chiudo. Problemi non ne ho. Io ho già deciso bene. Sì, infatti non è che siano così forti i rumori, sentono sotto a fondo. E il ventilatore che fa i rumori? È acceso. E domani intanto devo andare a pigliare una scaletta a mia moglie, una di quelle piccole. Chieda già da arrampicare. Cazzo di aro. E quando si pone in capo una cosa non mi raggavi manco così t'ammazza. Vabbè, e così mi faccio un giro a vedere se trovo qualche motorino. Guarda, io ogni volta che devo salire sull'armadio per prendere una scala forbice con il tutto in ferro e pisavo un me, mi sono rotto le scatole, sono andato a Cinesi, ho preso una scala in alluminio e c'ha 4 gradini, adesso perfetto, leggera, 45 euro pagata. Ma lì, ho visto uno scooter 125 su Marketplace. 900 euro, nuovo, pochi chilometri anche, controlla, vede, va su Facebook, Marketplace. Ma già va a controllo nel negozio, che è meglio, dai privati puoi prendere fregature, è meglio andare da in negozio. Se dopo non ne trovo me lo prendo nuovo e ciccia. Domani mi faccio un giro dove mi ha detto Fungo. Che uno gli ha lavato già c'è fa, che Scarabeo, che Liberty, come ti chiesto di Marcolino, non lavora già c'è fa, un 125. Non c'è da sbagliare, quando tu sei via Colo Felice, giri per il quadrato, e c'è il negozio di moto, poi c'è il bar, un coso, cosa cavolo è quello, Capitanoncino, che lì ti fanno anche le panine, eccetera, eccetera. E lo conosco, dove è quello che vende le moto, non ci ho pensato che... E ci sono passato vicino stamattina, te li mani. Non faccio pensare, ma domani ando direttamente. Prima compro una scala, mia moglie. Dove le posso trovare quelle scalette a 3 gradini, quelle piccole, Mitoni? Apri come la Mauris. No, devo comprare una di quelle, perché quella che ho è rotta e mia moglie la vuole nuova. Vabbè, mi tocca andare a comprarle a Caretta. Andare, prima vado a pigliare di quella, poi mi faccio un giro, mi faccio per vedere se la trovo una di queste moto così. Vabbè dai ragazzi, ci sentiamo, che io devo fare una telefonata. Alle prossime. Natali, da Muraia, Cinesi. Ah, la scaletta, sì sì, allora vado lì. Così vado a colpo sicuro. Sono in un video giù in fondo, poi giro a sinistra, quasi alla fine, sono attaccato al muro con le scale. Cazzo, anda bene meno, dai. Già nelle prime. Ma stai chiudendo? Devo telefonare a ordinarmi le pizze. Poi la gente quando viene mia moglie, tanto me le portano qui. grazie, va, ciao a tutti e due. Ciao, ciao a Tori. Oh Tori, da quanti gradini è quella scala che comprate? Allora, 1, 2, 3, 4 gradini e più la piattaforma quadrata. No, io sto pensando di prendermela così, però per salire sul tetto mi serve in alluminio, perché quella che ho è pesante, è un tronco. Anch'io ce l'ho quella pesante pesante. Tanto è vero che la giornata lavora, poi va bene, c'è un casino, se si è rotto anche così ce l'ho mediane, ce l'ho, no, non va bene. Sì, a te ti conviene un po' più di 4 gradini, ma per salire dove c'è l'antenna? Eia! Eh no, ci vuole più alta della mia, questa è piccola, no, penso che non ci arrivi con la mia. Sì, cos'era sulle 100 euro l'avevo vista io, ma credo 50 euro è poco, sai come tirare la chiesa di Buglioli per abito? Da 8 per 80, 90, no, 100 euro non ci arriva. Io l'ho vista da Bricco, 100 euro, poi ero con Franco, ma dico, vai non in biblioteca, capito, perché il barco di Sbirici di Napoli, non è scala, non ne ho preso, mi ha convinto, non ne ho preso. Bricco è caro, adesso non lo so come sia, se ha cambiato gestione o che cosa, il nome l'ha cambiato. Sì, ha cambiato il nome, ma è tutto caro. Per andare lì, vai di sinistri, cosa molto di meno, capito, e la trovino lo mio. Ehi, vabbè. Luca, c'è uscito? No, già, dai, sto uscendo, dai, sto andando a fare una commissione. Se ci siete, ci sentiamo dopo. Ha comprato le pizze per andare, no? No, non fa un regalino, domani non sono a compleanno, no, cosa pizza, l'ho mangiato ieri. Cava, dai, va bene. Sì, è presto ancora, tutti vanno via, sta. Io vado a lutto, io scendo alle 8 adesso, perché c'è troppo caldo qui, va. Mi vado a voi, voi delle pizzerie, ti ho pucciato di mano. Ah, io devo uscire, ma vogliamo la pizza. Ah, oggi la croccante le fa le quadrate, quelle a taglio. Oggi è? Lunedì? Cappa. Certo che le fa. Le fa da lunedì fino a giovedì. Venerdì e sabato non le fa. Cappa. Sono intenzionato, vediamo. Ehi, vabbè, io l'ho preso l'altro giorno. Prese l'altro giorno, erano buone, erano belle croccanti appena fatte. Scommetto che hai mangiato così? No, ne ho preso due. Buffa, che tu fa due, ma spezzi cuore. Sì, due, ne ho preso due, basta. Due solo. Adesso tu non hai manco idea di che cosa sto mangiando io. C'è sempre la glicemia a 100, 96, 102. La mattina che prima era sempre più alta di 200, adesso è sempre 101, 102, 120 massimo. Io 115, 127, sempre mi sto regolando, mi sto mangiando poco. Vedi, mangiato un riso come sale. Il riso quello basmati, quello lì con la fa salire ancora di meno. Il riso è carboidrati, non è che c'è come una pasta, non è che sia diverso. Però c'è quello basmati, che quello lì è, diciamo, è per diabetici, praticamente è un riso che non ti fa salire la glicemia. Ah, ma io non ne sto mangiando di prima, sto mangiando molte verdure, frutta, e non mi fa un pesce, oggi ho mangiato l'anguria, non mi saluta niente. L'anguria è 97% di acqua e 3% di zucchero, lo sappiamo, anch'io, fette anguria, eccetera, spinaci, capito, pietoline. Fagiolini. Se tu mangi l'insalata e ti avuti l'insalata all'inizio, che non ti fa nulla l'insalata, poi non hai più voglia di mangiare altro. Io l'altro giorno ho mangiato i fagiolini e non ho mangiato altro perché ero già pieno. E infatti stasera faccio la bella ricca insalata, fatta anche la capresa, proprio la mozzarella, buona raga, un po' di origano, un filo di olio e vai. E io la faccio spesso quella, la capresa me la faccio spesso. Vabbè, ogni tanto bisogna cambiare, dai, carne ne sto mangiando molto poco. Ah, io ci metto anche il gran turco, c'è il mais, ci metto in mezzo, i fagioli Spagna, di tutto qua. Il gran turco è dolce. Vabbè, ho quelle scatolette piccole che mi compro, poi ho preso quelle scatolette sempre piccole, ma piccole lì, tipo la simetà, e dentro c'è piselli e carotine, che buone che lo usano il gran turco per pescare le carpe, figurati, perché mi piace la roba dolce. Vabbè, poi come si chiama? A voi, nell'insalata, timone, la scatola di scala di simetà, poi ci metti i pomodori, i citrioli, stavo giù in Spagna, e qua. Io l'altro giorno mi ho fatto una con le uova a sole, poi cosa ci ho messo? Pomodori, uova a sole e tonno, e un po' di maionese, era, guarda, una fava. Già, e tu dici a me, la maionese fa zimari, troppo grassi. È light quella che uso io. Non è sempre maionese. No, non è come dici tu. È la stessa cosa che tu dici, fai un pane integrale. Cioè, pane integrale ha meno carboidrati. No, mi ha detto proprio il diabetologo l'altra volta, fetti biscottati integrali, non è mangiare che fai prima, meglio mezzo panino, ma non di più. Pensa un po'. Poi come tu ti metti lo zucchero, quello dolcificante, no, anche quello fa male, vedi? Io perché lo voglio amaro, ormai mi sono abituato, sono contato, mi conosco a fe. Se la mano ne sono combinando in nulla, cresce fascia dalla macchinetta. Ma sempre quella nera. Sì, c'è rotta, no. Toglie solo vapore fuori e non esce il caffè. E adesso l'ho un po' fatto a pulire tutto quanto, niente da fare. E adesso me lo sto facendo con la bocca. Scusa, ma c'è una collezione rotta? Non lo so, però non ne vale la pena portare di sale, l'ho pagata sulle 90 euro, mi pare. Se la potevi usare, mi devi dare altri 50. Io ce l'ho uguale, uguale con la tua. E l'ho messo a parte perché sto usando il pinguino, che ce l'ho già, ho 4-5 anni. Il pinguino? Cappa, metto le capsule e ci metto in mezzo al latte. Ma ti fa anche il cappuccino? No, fa solo il caffè e il ginseng, quello che vuoi, non ne fa cappuccino. Quella che c'è tu, quella nera, io ce l'ho uguale identica, De Longhi. Però...